Saving him, poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Mucca Libera, l'unico programma antispecista in onda su www.radiasilo.it dalle 19 alle 20 ogni lunedì. E iniziamo subito con la puntata, con qualche notizia che ci arriva dal mondo, soprattutto animale. E io vorrei cominciare con le celebrazioni. È sempre bello cominciare parlando delle feste, vero? Chiedo al mio compagno. Beh sì, direi che ci sta come inizio, dai. Ok, e quindi iniziamo a parlare delle feste, perché questa settimana ci sono state non una ma ben due giornate mondiali che hanno celebrato alcune specie animali. Il 23 maggio è stata la giornata mondiale delle tartarughe. Sappiamo benissimo che molte tartarughe sono a rischio estinzione e quasi esclusivamente a causa dell'inquinamento prodotto dalle attività umane, che finisce per contaminare gli habitat naturali delle tartarughe, per cui c'è un gravissimo rischio estinzione che pesa su di loro. Tra l'altro molte tartarughe, soprattutto ne parlavamo qualche puntata fa nella nostra rubrica Divisioni, in cui consigliamo il documentario Seaspiracy, molte tartarughe marine muoiono per l'ingestione di materiale plastico e come è mostrato anche in quel documentario, in realtà la plastica che ingoiano non è costituita dalle nostre bottigliette di succo di frutta, ma sono in realtà prevalentemente porzioni di rete o lenze di reti o lenze da pesca. Quindi ancora una volta è la pesca quella che inquina molto di più tra le attività umane inquinanti il mare. E quindi, come capita sempre nelle giornate mondiali, si è parlato delle tartarughe, di come proteggerle, e poi sostanzialmente sappiamo che nulla di fatto si fa, si riempie solo i social in queste giornate di immagini che celebrano queste specie per poi continuare a devastare il loro ambiente e sfruttarle il più possibile. Il 20 maggio è stata un'altra giornata mondiale, questa volta abbiamo celebrato le api. Delle api abbiamo parlato molto spesso in questa trasmissione, anche recentemente, quindi non mi dilungherò ripetendo cose già dette. E anche qui tutti i social, i siti sono stati invasi da bellissime foto di api, ma si è parlato prevalentemente, se non esclusivamente, delle api da miele che sono allevate dagli agricoltori per la produzione del miele, ma pochissime persone sanno che in realtà esistono tantissime specie selvatiche di api che hanno delle funzioni importantissime sia dal punto di vista della biodiversità che dal punto di vista dell'impollinazione, e soprattutto mi vorrebbe da dire, indipendentemente dalla loro funzione all'interno del mondo, esistono, sono vive. Szkarpy slaczać operę, forsy szpajcha mi moda, manu szpajcha ma moda, trazi manda galera, leciące se ci boba. Continuiamo a parlare di notizie, questa volta parlo del Parlamento europeo, non lo faccio mai. Non parlo quasi mai delle istituzioni, ma voglio parlare del Parlamento europeo perché la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea, di cui fa parte, una revisione della direttiva europea sugli animali negli allevamenti affinché sia eliminato l'utilizzo delle gabbie. La cosa potrebbe essere anche vista con favore, ma in realtà, come spesso abbiamo parlato più volte, non sono gli allevamenti umani a livello i buoni quelli che renderanno possibile la sopravvivenza dell'ambiente e delle altre specie, ma come sappiamo l'unica possibilità è abbattere gli allevamenti. Tra l'altro, una cosa che mi colpiva particolarmente è che in questa richiesta da parte della Commissione Agricoltura è ben sottolineato che però anche laddove la Commissione Europea dovesse decidere di abbandonare l'uso delle gabbie all'interno degli allevamenti, in ogni caso saranno necessari molti incentivi alle aziende, un gran numero cospicuo di finanziamenti affinché effettivamente gli allevamenti possano rimodularsi senza utilizzare più gabbie. E questa cosa mi fa particolarmente orrore perché diventa chiarissimo come anche in questo caso è semplicemente un sistema economico che si vuole mantenere, il profitto che vuole essere incentivato, ma non c'è alcun interesse rispetto alla vita di questi esseri che vivono come noi. Una notizia invece che ci arriva dalla Cina, per rimanere collegati anche questa settimana con la resistenza animale, ci viene dalla città molto grande in Cina di Hangzhou, dove in un parco safari tre leopardi sono fuggiti, creando grande scompiglio nella città, insomma nella gestione amministrativa del parco, che addirittura i dirigenti sono stati arrestati per questa fuga avvenuta. Questi due leopardi sono riusciti a fuggire da questo parco safari, che insomma è un po' un grande zoo, diciamo, per turisti, di intrattenimento, che ci ricorda un po' quel mondo coloniale, insomma, in cui appunto anche gli animali sono visti come fonte di intrattenimento e di profitto per queste aziende. Di questi tre leopardi, due sono stati catturati subito e sono stati trovati in una zona, in una piantagione dove c'è il tè, una piantagione di tè, insomma, quindi stavano lì, non facevano male a nessuno, semplicemente sono scappati da questa reclusione. Uno però è ancora in fuga, fortunatamente, aggiungerei. Facciamo sempre il tifo per tutti gli animali che fuggono e che resistono. Questa fuga ovviamente è sempre sotto la lente di tutte le forze repressive, quindi stanno cercando di catturarlo, ancora resiste, c'è un grande dispiego dei soliti mezzi militari, droni e tutto diciamo, l'armamentario che viene usato in questi casi, ma questo leopardo è ancora fuggitivo. continuiamo con le nostre notizie. Il mondo si è un po' capovolto, perché vedo che io sto dando le notizie sul Parlamento e tu quelle di resistenza animale, quindi c'è qualcosa che non va in questo duo, ci stiamo influenzando malamente a vicenda, quindi qualcosa, un equilibrio deve essere ripristinato. Continuerò a mantenere questa bilancia completamente sbilanciata parlando adesso di un rapporto dell'Eurispes, rapporto Italia 2021, quindi ancora una volta io resto sul lato ufficiale e istituzionale per la mia totale infelicità. Però questo rapporto mi ha colpito perché, tra le altre cose, come ogni anno si parla anche dell'alimentazione vegetale, quindi finalmente abbiamo dei dati rispetto, anche se parziali, perché comunque è un rapporto che non copre completamente l'intera popolazione italiana, però in qualche modo abbiamo un riscontro rispetto all'andamento dell'alimentazione a base vegetale. L'8,9% nel 2020 ha avuto un'alimentazione a base vegetale e l'8,2% dell'anno in corso ha mangiato a base vegetale. Di questi il 6,7% è vegetariano e il 2,2% è vegano, un'alimentazione vegana. Gli altri anni la percentuale totale si attestava intorno al 7% o qualcosa in più, quindi in effetti c'è un lieve cambiamento al rialzo del numero di persone che mangiano a base vegetale, anche se poi nei fatti sono aumentati i vegetariani e sono diminuiti i vegani, quindi c'è qualche cosa che non va in questi spostamenti all'interno. Le motivazioni anche sono riportate per cui si sceglie un'alimentazione a base vegetale. E la prima, quella con il numero più alto in percentuale, riguarda la salute e il benessere, il 23,2%. Una quota leggermente più bassa, ma sempre pari, sempre intorno al 20%, il 22,2% per l'esattezza, invece sceglie questo tipo di alimentazione per gli animali. E una quota anche abbastanza importante, l'11,2%, la sceglie invece per la tutela dell'ambiente. Mi hanno particolarmente colpito, tra le altre percentuali che sono comunque più basse, due che trovo quantomeno condivisibili, non credo. Una soprattutto, sperimentare nuovi stili alimentari, cioè così per provare, il 9,5% ha detto provo a non mangiarmi più di esseri, non cibarmi più di esseri viventi. E il 5,9% invece ha detto che lo ha fatto sia nel 2020 che nel 2021 per mangiare meno e meglio. Nel 2020 comunque questa è una top 10 che riguarda il 2020, ma che riguarda anche un po' in parte la nostra rubrica cucina antispecista, perché hanno oscillato i cibi vegan più acquistati. Vediamo se riesce a indovinare al primo posto cosa c'è tra i cibi vegan più acquistati. La soia. No, sbagliato. Però è un derivato della soia in realtà. Dai, ce la puoi fare. È il tofu, bravo. Come si fa a essere vegani senza mangiare il tofu? In realtà io sono una grande amante del tofu, quindi non ne parlerei mai male. So anche tu, quindi non potremmo mai parlare del tofu, soprattutto se fritto ha un suo perché. E al secondo posto invece c'è l'hummus, che viene inserito tra i cibi vegan più acquistati, ma a questo punto direi potevano mettere anche la pasta e fagioli oltre l'hummus, considerato che insomma l'hummus è vegan di costituzione, come dire, come tantissimi altri alimenti a base vegetale. Al terzo troviamo i burger e i mini burger veg, che pure sono un prodotto abbastanza acquistato. E non farò tutta la top 10 perché non te la meriti, però ti vorrei dire che al decimo posto troviamo il tempeh, che tu non hai ancora provato, ma io ti assicuro che il tempeh è buonissimo, quindi mi è dispiaciuto vederlo così in fondo all'interno della classifica. E c'è anche la top però 5 dei cibi, non ho capito perché hanno fatto per una la top 10 e un'altra la top 5, comunque hanno fatto bene, perché i vegetariani sono comunque da discriminare un po', giusto? Sono d'accordo. Non si meritano la classifica di ben 10 cibi, vanno bene 5. E quindi vediamo se adesso riesci finalmente a indovinare il primo posto, pensaci bene, dei cibi vegetariani più acquistati. Essendo vegetariani, non lo so, le uova potrebbe essere... Beh, se avessero considerato come cibo vegetariano da acquistare le uova, però penso che, non so, ci sarebbero stati dei problemi. Ci sono altre idee, noi abbiamo spettatori qui in diretta nella... Ci sono altre idee? L'insalata. L'insalata. No, avete veramente poca fantasia, perché in realtà era molto più semplice, perché si tratta dei burger, i burger vegetali, che tra l'altro io trovo una cosa anche abbastanza comprensibile, perché insomma chi è vegetariano sostanzialmente mantiene un'alimentazione molto più simile sicuramente rispetto a un vegano a quella degli onnivori, e mentre la moglie si fa l'hamburger di vitello, secondo me il marito, che è diventato vegetariano, preferisce cuocere alla griglia un burger vegetale. Quindi niente, neanche stavolta siete riusciti a indovinare, ce la fate indovinare il secondo posto? No, vi vedo già, mi direte la pasta, quindi preferisco non interrogarvi. Vi dico direttamente che al secondo posto ci sono le cotolette veg, sempre secondo me più o meno per lo stesso motivo. Voglia di fantasia molto poca questi vegetariani. E al terzo posto, anche qui un po' come l'hummus al secondo posto nella top vegani, troviamo i falafel, che anche loro, cioè son vegetariani di costituzione, quindi neanche bene lo capisco. E alla fine la top 5 in fondo, ma comunque molto acquistate, ci sono le lasagne con il ragù veg. Io direi che a questo punto mi è anche venuto un certo appetito, non so a voi, però è venuta quasi voglia di mangiare. Manda galera, caduto ralecea, razia o soraci vovo, scarpe slacciato vera, new balance ti adora, forse sbagliamo in moda, ma non sbagliamo in moda. E adesso, se prima c'era venuta fame, la fame ci passerà immediatamente, perché l'ultima notizia che volevo dare riguarda qualche cosa di abbastanza cruento, che è la macellazione domestica. La macellazione domestica dei bovini. Un decreto legge di fine marzo, quindi molto recente, autorizza le regioni a decidere in modo assolutamente autonomo se rendere possibile o meno la macellazione privata dei bovini. E questo è un passaggio fondamentale, perché fino adesso era una cosa infattibile dal punto di vista dei privati cittadini. Mentre altre specie come conigli, galline o altro era fattibile, per i bovini non era possibile. E la trovo una cosa particolarmente aberrante, soprattutto in considerazione del fatto che siamo nel 2021 e non saprei neanche se dire stiamo uscendo, perché non so se è vero che stiamo uscendo, nel caso comunque molto faticosamente, da un evento pandemico che ha distrutto non solo le nostre vite di animali umani, ma anche la vita di tantissimi altri animali non umani all'interno del mondo. E quindi mi chiedo, e che appunto ha le sue origini comunque in uno sfruttamento, in qualunque modo la si voglia vedere, ha comunque le sue radici in uno sfruttamento eccessivo di altre specie anche dal punto di vista alimentare. Quindi mi chiedo come si possa in questo tipo di condizione arrivare addirittura a pensare che privatamente i cittadini possano, oltre che continuare a macellare bellamente i loro conigli, galline eccetera, iniziare addirittura adesso a farlo anche con la mucca da cui hanno preso il latte fino a quel momento magari, e così via. Tra l'altro, leggendo questo decreto legge, mi ha particolarmente stupito il fatto che le macellazioni private, quindi in questo caso anche l'eventuale autorizzazione a una macellazione privata di bovini, abbiano tantissime deroghe alle regole che esistono invece per macellazioni non di tipo privato. Tantissime deroghe sia dal punto di vista sanitario, ma anche proprio dal punto di vista del trattamento dell'animale. Per esempio, non è necessario per la macellazione privata lo stordimento dell'animale prima dell'uccisione. Quindi questo significa della macellazione. Quindi questo significa che si può uccidere e iniziare a macellare un animale che sostanzialmente è vivo e respira ancora, il che è una cosa di un orrore indicibile. Let's just say she's Mo spara nie vale se skroko sigaret, ma nie beva gratis. Se tu dam rem, proteggiamo se mangia. Adesso ti stupirò e darò un'altra notizia di resistenza animale, quindi continuo a stupirti non parlando del parlamento, diciamo, di notizie provenienti dal mondo del parlamento, ma notizie provenienti dalla resistenza animale. E do questa notizia invece che dalla Cina, arriviamo in Italia, vicino Torino, a Venaria. È una notizia che è girata molto per i canali media, se ne è parlato molto perché 5 tori che appartenevano a un allevamento per un rodeo della zona sono fuggiti. E questa è già una bellissima notizia che abbiamo dato anche sul nostro canale Telegram qualche giorno fa. Aggiorniamo la notizia: dopo la fuga di questi 5 tori, uno purtroppo è stato investito da un'automobile, questa è una brutta notizia che purtroppo è di 2 giorni fa, e l'altro, un altro dei 5 tori è stato catturato questa mattina, quindi diamo quest'altro aggiornamento di poche ore fa, sempre nella zona lì di Venaria è stato catturato. Gli altri 3 tori quindi sono ancora in libertà. E il resoconto di chi li sta cercando è che appena vedono a 50 metri di distanza una persona, insomma, se ne vanno via nei campi, perché lì ci sono, insomma, una zona abbastanza ampia di campagna nella quale si stanno nascondendo. E quindi, come ho detto prima, per il leopardo che è ancora fuggitivo fuori dal parco safari, facciamo il tifo anche per gli altri 3 tori, stavo impappinando i tre tori, i 3 trentini che sono in fuga, quindi siamo con loro, siamo con la resistenza animale sempre, speriamo che possano riuscire a mantenere questa libertà che si sono faticosamente sudati. Adesso direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica la settimana scorsa siamo già andati in onda quando una notizia era già girata, che è la morte di Franco Battiato. Noi abbiamo scelto di non far girare brani suoi, ma questa volta decidiamo di far sentire un suo brano, perché vorremmo ricordare di Franco Battiato, che è stato vegetariano fin da piccolissimo, ha parlato molto del rapporto con gli animali, e ha parlato molto anche in molti suoi brani, anche in molte interviste, della presunta superiorità della specie umana rispetto alla specie animale. E questo brano io trovo che sia un brano molto bello, che tocca tutto l'orrore del cibarsi di esseri viventi. Vasta e temibile l'età del tempo, di profonda e irrimediabile povertà, quando ancora non si distingueva l'aurora dal tramonto, quando l'aria della prima origine, mischiata a torbida e instabile umidità, al fuoco ed alla furia dei venti, celava il cielo e gli astri. Come può la vista sopportare l'uccisione di esseri che vengono sgozzati e fatti a pezzi, nodi, pugni e busto, perne, gli umori e il sangue, le carni agli spiedi crude. E c'era come un suono di vacche, non è mostruoso desiderare di cibarsi di un essere che ancora emette suoni. Sopravvivono i riti di sarcofagi e cannibalismo, sopravvivono i riti

malo somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca. Somos letras emigradas. Somos las que no se rinden jamás. Poro, po, po. Torniamo in voce dopo questa bellissima intervista a Pino, che ha detto delle cose veramente molto belle ed importanti. Mi sarebbe piaciuto anche parlare un po' di Zero Waste, perché ultimamente è diventata un po' una mia fissazione quasi, però sicuramente ci saranno altre occasioni per parlarne. Qui avremo bisogno di uno stacchetto, ma come sempre questo stacchetto lo diciamo da almeno 3-4 puntate, questo stacchetto non esiste, per cui vi annuncio io direttamente che parte la nostra rubrica cucina antispecista con Chef Rubo. Non lo so, posso fare lo stacchetto mi verdura e io sì, esto sì, es amor. No, speravo che dicessi ma da dove prendi le proteine, non che facessi lo sacchetto. Ti sei sentito molto creativo stasera ed hai deciso di partire, è un po' esagerato, sì. Non ti passerò mai più il microfono, diciamo, o anche meno, esatto, fly down. E allora, questa bellissima rubrica di oggi che durerà pochissimo, perché fortunatamente l'intervista ci ha preso la maggior parte del tempo ed era sicuramente molto più interessante di quello che avrà Chef Rubo da dirci, però ci sono arrivate due domande che diciamo dopo un breve consulto con il mio collega abbiamo deciso comunque di proporvi, nonostante io non sappia assolutamente diciamo come rispondere, e vediamo se te le ricordi le domande, almeno me le fai tu, così diventa un po' più interattivo, eh? Te le ricordi? Penso di sì. Allora, la prima riguarda il ferro, che nell'alimentazione vegana viene chiesto se manca oppure come si può trovare, diciamo, negli alimenti. Ah, in realtà la domanda era anche molto più, come dire, teatrale, perché ci è proprio arrivata così, dicendo che il medico di questa persona, il dottore, le ha detto che se mai dovesse passare ad un'alimentazione a base vegetale, cadrebbe svenuta a terra ogni 5 minuti, quindi era molto più teatrale in quanto già anemica. Ovviamente Chef Rubo non è un nutrizionista, ruba solo le proteine ai vegani e alle vegane per darle ai poveri onnivoro, però Chef Rubo sa che comunque un'alimentazione a base vegetale ben bilanciata fornisce tutto l'apporto di ferro di cui c'è bisogno, quindi non è necessario mangiare una bella bistecchina, ma bastano i legumi, bastano le verdure a foglia verde e quant'altro, e c'è tutto il ferro possibile di cui si necessita. Passiamo alla seconda domanda. La seconda pure è molto bella, chiede se diventando vegano bisogna mangiare solo tofu e soia. Se ricordo bene, questa era la domanda. Sì, la domanda è questa e la risposta è altrettanto, in questo caso è semplice, anche più semplice di quella precedente, perché la risposta è sì, se non te ne cibi almeno una volta al giorno, nessuno ti riconoscerà mai come vegana o vegano, in quanto noi siamo esseri probabilmente arrivati dallo spazio che si riconoscono solo perché chiedono il tofu al ristorante. Quindi ovviamente la risposta è no. Ciò non toglie tuttavia che se ti privi della soia perché secondo te gli ormoni, gli OGM e tutte quelle altre cretinate che si dicono, e il tofu perché non hai idea di che cosa sia fatto, secondo me ti privi comunque di due alimenti che, se cucinati bene, sono buonissimi e fanno benissimo. Ti sono piaciute le mie risposte? Sì, vedo, hai detto sì con la faccia, mi dici sì, quindi va bene così. Direi che anche per oggi possiamo concludere questa splendida puntata della Mucca Libera, che è stata molto bella grazie all'intervento di Pino. Per il resto io e te, diciamo, abbiamo fatto la nostra solita figura barbina, quindi meno male che ci ha salvato. Quindi direi che possiamo salutare chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolterà in replica domani, quindi martedì alle 11 su Radio Asilo. E ricordiamo che il programma La Mucca Libera è in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20, che non abbiamo nessun tipo di pagina social, nessun IBAN, quindi nel nostro caso non ci potete donare niente, però volendo potete iscrivervi al nostro canale Telegram e quindi restare aggiornati sulle notizie che scegliamo di dare, che sono soprattutto notizie di fughe e resistenze animali, e eventualmente anche lì potete reperire i podcast delle puntate che vi siete persi, perché poi vi interrogheremo tutti e tutte. Vuoi salutare? Sì, un saluto, mi raccomando, restate collegati con La Mucca, ci sentiamo lunedì sera, ciao a tutti e a tutti. My Lucifer is lonely, standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Peter's on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. I cannot do this snowflake.